La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. In occasione della giornata della memoria, che si celebra il prossimo 27 gennaio, data in cui 65 anni fa venivano abbattuti i cancelli di Auschwitz, la puntata di oggi è interamente dedicata al ricordo della Shoah. Ai microfoni di Dino Pesole è oggi ospite Luciana Tedesco, autrice del volume I ragazzi nella Shoah, edizioni Paoline. Sono noti i ricorrenti tentativi di ignorare, minimizzare e distorcere la memoria della Shoah. Per questo è sempre più urgente introdurre i ragazzi a questo drammatico tema che documenta un abisso di male che non sembrava possibile neppure immaginare. L'unico modo per non dimenticare e per trasformare questa tragica pagina di storia in un percorso di consapevolezza è far conoscere, informare e documentare, lasciando parlare i fatti. Parte da questa premessa un libro presentato lo scorso 19 gennaio alla Casa della Memoria e della Storia a Roma, evento che ha introdotto le iniziative per rievocare il giorno della memoria, quel 27 gennaio del 1945, quando le truppe dell'Armata Rossa aprirono i cancelli del lager nazista di Auschwitz. Il titolo del libro è «I ragazzi nella Shoah». È indirizzato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, raccoglie sotto forma di racconti, lettere e testimonianze i fatti di quegli anni. È il loro punto di vista, appunto il punto di vista dei bambini e dei ragazzi sulla guerra e le sue conseguenze. Sono i loro drammi, le loro domande e le loro sofferenze a essere trascritti nella pagina. È scritto da Luciana Tedesco, che è ex insegnante di inglese nei licei di Roma, ebrea, impegnata da anni nella sensibilizzazione sulle problematiche della Shoah. Luciana Tedesco, quando vennero proclamate le leggi razziali in Italia, era il 1938, aveva 5 anni. La persecuzione anti-ebraica cominciò anche da me, ha scritto. Buonasera, signora Tedesco. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Noi vorremmo chiederle innanzitutto di raccontarci la sua esperienza diretta. Ovviamente lei era bambina quando le leggi razziali in Italia fecero il loro esordio nel 1938, ma lei stessa scrive che la persecuzione anti-ebraica cominciò anche da lei. Sì, perché io avevo 5 anni e fui cacciata dall'asilo. Quindi non potevo frequentare la scuola e per fortuna la comunità ebraica organizzò delle scuole ebraiche a Roma e potei frequentare la scuola Pestalozzi di pomeriggio, perché di mattina andavano i bambini cristiani e di pomeriggio gli ebrei, però insomma io non sapevo neanche che non potevo frequentare la scuola perché ero diciamo come di una razza inferiore, ma sapevo solo, avevo capito che i bambini ebrei dovevano andare alla scuola ebraica e che i bambini cattolici dovevano andare alla scuola cattolica. E poi ci fu il dramma, come sappiamo, del 16 ottobre. Intanto diciamo abbiamo continuato la nostra vita, non si potevano fare tante cose, per esempio non si poteva andare in villeggiatura, non si poteva viaggiare, non ci si poteva trasferire, non si potevano fare tante cose. Dunque mi trovavo con nonna in una casa di una mia zia che era partita per l'America per le leggi razziali e era Ostia. Era una piccola casa che era vicino al mare. E mi stavo divertendo, eravamo appena arrivate e a un certo punto però la cosa strana fu che mentre eravamo a casa bussarono alla porta e io andai a aprire e vidi un ufficiale. Allora andai da nonna e dissi: nonna, c'è un soldato, ma è più di un soldato. Allora vidi già nonna che era un po' agitata. Lei andò alla porta e c'era questo ufficiale che le chiese: senta, il comandante Jarak dov'è? E mia nonna rispose secca: il comandante Jarak è partito. Ah, perché io ero un suo amico, lo volevo salutare. E allora poi questo signore se ne andò, mia nonna disse: dobbiamo partire. E immediatamente facemmo le valigie e ce ne andammo, perché in effetti gli ebrei non potevano andare in vacanza. E mia nonna ebbe paura che quello fosse un poliziotto, ma non lo era, penso che non lo fosse, perché lui era probabilmente sicuramente uno che cercava veramente mio zio, però lei era talmente preoccupata che ce ne siamo tornati a Roma, e quindi anche quella piccola vacanza che aveva appena cominciato con delle bambine della mia età è finita. Ecco, ora ci racconti di quella drammatica notte, la retata dal ghetto di Roma del 43. Sì, c'era stata la richiesta dell'oro da parte di Kappler alla comunità ebraica, voleva 50 chili d'oro, e allora c'erano solo 24 ore per dare quest'oro, perché altrimenti avrebbe portato via 200 ebrei. Allora c'è stata questa corsa all'oro, una corsa spasmodica, perché naturalmente ognuno portava quello che aveva, quello che poteva, eccetera, e non si sapeva se si raggiungevano questi 50 chili d'oro. Passano le ore, quanti chili sono, quanto siamo, eccetera. Però poi dopo questa voce si era sparsa e anche i cattolici avevano cominciato a portare chi una catenina, chi un anello, ognuno quello che poteva, e quindi era aumentato anche con l'aiuto dei cattolici. E poi si era offerto anche il Papa, che aveva detto che se non si arrivava lui avrebbe messo la parte mancante. Invece non c'è stato bisogno, perché la generosità è stata tanta, anche lo sforzo ebraico è stato tanto, che sono stati raccolti 60 chili d'oro. E allora questi 50 poi sono stati portati a Kappler, e purtroppo la comunità ha creduto di essere al sicuro, perché aveva pagato in un certo senso i così, tedeschi. Così invece non fu, purtroppo. Così invece non fu. Ecco. E intanto però, per fortuna, mio padre era stato 2 anni in Francia a lavorare, lui era ingegnere, ma non so, non credo che avesse fatto l'ingegnere, comunque non lo so. E lì aveva già subito l'occupazione, aveva un nome falso, però sapeva che cosa facevano i tedeschi agli ebrei, e quindi l'ha detto. Io ricordo proprio le sue parole: guardate che l'oro non ci salva. Bisogna nascondersi, perché io ho visto che cosa fanno i tedeschi agli ebrei. E allora ci siamo subito nascosti, perché c'erano degli amici molto generosi che ci hanno offerto ospitalità. Adesso, signora Tedesco, parliamo del suo libro. Sì. Perché ha deciso di scriverlo per i ragazzi, in particolare i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni? Beh, in primo luogo perché io ero stata bambina in quell'epoca, e c'erano state tante storie di bambini che non si sono sapute, ma i bambini hanno sofferto, perché insomma si sono trovati di fronte a cose più grandi di loro. E in secondo luogo perché ho pensato che la memoria principalmente va ricordata soprattutto ai bambini, ai ragazzi giovani, che possano a loro volta essere preparati già dall'età di 11, 12, 13 anni, e allora introiettare questo male così grande che è successo, e essere sicuri che questo è successo, non poter dire che non è successo, e poter dire agli altri: guardate che è successo e non si deve più ripetere. Questa è stata la mia, diciamo, di quello che ho avuto dentro di me nel rivolgermi ai ragazzi. Io penso che sia proprio necessario che la memoria sia sempre tenuta viva, perché un'atrocità di questo tipo è stata talmente grande, talmente al di sopra dell'immaginario di qualsiasi persona umana, e ha superato i limiti di qualsiasi ferocia precedente, perché è stata aiutata c'è stata la ferocia unita alla tecnologia e aiutata da scienziati, quindi una cosa talmente imprevedibile e impensabile che va ricordata per quello che è stato nella sua grandezza di cattiveria e di crudeltà, e non ci dobbiamo mai stancare di raccontarla. Come ricordiamo, episodi della storia lontanissima, della storia di Cesare, della storia di tempi anche molto lontani, dobbiamo ricordare questa che un giorno sarà lontana, ma che sarà un esempio di una ferocia molto molto grande. Grazie signora, grazie tante per la sua testimonianza. Grazie a voi.